sto facendo due chiacchiere, 10 minuti e poi vado a prendermi una boccata d'aria. Oh, stai parlando lì in verticale con un'altra gente. Non t'ho capito. Sono su la gira. Cazzo, c'è qualcuno messo a framudola, dimmi. Ho detto, se stavi parlando con qualcuno lì in verticale. Affermativo. Poi non lo ricordare allora. Non viene bene, dai. Troppo grosso, Oia. Oia. Con sempre con Galaxy, no? Io? Eia. Cappa Briosa, Galaxy e Carne più 3.000. Bene, bene, la squadra che vince non si tocca. Ti interessa perché? No, già ce l'ho nel radio, Massimiliano. Ce l'ho. C'ho l'Urano, se giochi, se so capuccio. No, era una battuta. L'antenna mi voglio mettere adesso. Una mezz'ora, una cinquantave, boh. Sono con Ivi, zozza, vediamo un po'. Ma prenditi quella cosa, gatta, da una 5 ottavi, quella però è leggera, è alta 5 metri, c'è radiali 30 centimetri, e costa 40 euro. No, Massimiliano, non ne voglio mettere antenne con i radiali, perché qua ci sono un sacco di... sono colombi. E corvi, cornacche, e ci sono anche i gabbiani, e da voi mi ne lampano in terra. No, che sono passato con Galaxy. No, c'è radiali piccoli da 30 centimetri, va bene quella, c'è la Franco California, una bomba s'antenna. Beh, già lo so qual è, ne ho viste diverse, però preferirei mettere quella senza radiali. Vabbè, non so fino a che punto va bene. Bene, Rastro Galaxy. La bomba, Ah, no. Cosa ride, Adesso provo a mettere il microfono più alto, cioè, vedete? E perché non va bene così come? Vabbè, tu fai una cosa, i radiali ne li togli, non li monti. Ti piazzi quella senza radiale. Sì, li ho viste, c'è la Venom, quella con e quella senza. Poi c'è l'equivalente lo stesso della Sirio, anche quella con e senza radiali. Boh, sono indeciso, mi. Però una volta che stai mettendo non mettere una mezz'onda, no? Scusa. Se stai piazzando, piazza una 5 ottavi. Ello. Quello sì. Così mi compro una calata del cavo nuovo. E l'attacco al Jupix e la Boomerang l'attacco all'Urano. Così c'ho due radio indipendenti con antenne separate. E io ce l'ho così. Io questa dove sto modulando adesso è la Stellar, quella che c'ha 8 radiali. E poi a 2 metri di distanza, 3 metri c'ho la mantova. Sì, anche io volevo fare una cosa del genere, tanto posto qua nella terrazza già ce n'è, quindi non ho problemi. Ma se no ti muovo un pezzo di vino, un pezzo di polo, no qua. Io lo grido, un pezzo di vino, un di polo e c'è a posto. Allora, ho cambiato microfono, adesso sto andando col canale più 3B, più alta la modulazione. Più bella, va bene? Sì, Carlo è più bella. E allora c'è Mughito, tanto già va bene, è nero lo stesso. E io allora andavo di lusso. Non mi piace il suo grigio. Perché tu lo c'hai, il tanno è grigio? No, non mi piace quello grigio, se io ho quello nero, tanno più 3B. Però, B, quello nero. Ok, quello va bene. B come bisona. L'ho compreso. Gava. Quello grigio, l'ho avuto ma non mi ispira fiducia. Questo nero è una canonata, funziona bene, va bene. Adesso mi ha regalato Pinuccetto quando mi ha portato il radio. Mi ha detto, ultra Daniel 2, e tienitelo. Vabbè, me lo sono tenuto, capito. Alvini mi ha aggiunto buco al radio. Infatti. E come ce l'hai il Mickey qua? A metà? Sì, un po' più di metà. No, io ce l'ho a metà invece. Com'è la modulazione mia adesso che abbiamo il tarne tutti e due? Non brefe, che lui c'ha l'orecchio peloso. Di lusso? Di Russo, siete un figurone tutti e due. Io sto scendendo ancora un microfono tuo, non lo sai? Ma fai bene, mio, l'UBF. Quel microfono è di quelli belli che fanno bene. E si conferma, l'ho già detto, va alla grande. Ottimo per la truppa. Bene. Sì, adesso voglio... Sull'Uranus ci vorrei mettere il microfono, quello che ha preso Marco, che me ne ha parlato bene. Sì, c'ha un'ottima modulazione, l'ho sentito ieri, una bomba. Se vuoi ci vedo un microfono che c'ha coso, Marco, ma bene veramente, gli ho fatto i complimenti. È brutto che la morte, perché non è bellissimo esteticamente, però cazzo esce benissimo. Io di massima idea anche questo del tavello, però esce bene con determinate radio. Ne abbiamo già parlato, a me non piace. Però quello lì, per il prezzo che ha, brutto quanto sia, cazzo c'è una modulazione fantastica. Dici, è vero. Spinge bene, poi soprattutto con 3009, perché l'ha agganciato anche ad un presidente, era anche un bagno di radio e non era Matisse Guba. Ho messo a scaldare il DAC, vediamo se esce ancora, intanto le connessioni del microfono sono uguali. Sì, metti il DAC, metti. No, comunque quello l'UBF, quello lì sta andando alla grande, Quello ce l'hai sull'Uranus adesso? No, adesso è collegato al Jupix. No, sull'Uranus c'è un microfono normale. Bisogna cambiare la pedinatura, non ne ho voglia. Ah, ma quello è a 6 o a 5, quanto è? No, negativo. Il Jupix ha la stessa piedinatura del 3009. L'Uranus ha la piedinatura tipo Galaxy o Midland, dai. Basta, lo sai cosa puoi fare? Al posto di cambiare la pedinatura al microfono, la cambi direttamente alla radio e la fai uguale agli altri. È un travaglio, Massimiliano, cosa... Al limite, se mi voglio levare la soddisfazione, mi faccio uno spezzone, un adattatore, ciccia, ma... Vorrei comprare quel microfono che ha preso Marco, è così ogni radio è indipendente. Cava, anda bene. È che ho notato, ha una qualità sonora questa radio rispetto all'Uranus a livello di audio, è nettamente superiore. Come ricezione parli? No, come suono che esce dalla cassa. Il Jupix è bello betubieno, mentre l'Uranus tende a esaltare molto le frequenze alte. Stiamo parlando che tutte e due hanno la cassa esterna e tutte e due le casse sono uguali. Più da salotto rimane quello là, da? Un po' più medio-alto, dai, come sound. Però ci va bene lo stesso, dai. Chiaramente l'ho provato in FM, l'Uranus è molto più preciso, non devi spostarti, mentre l'altro in FM bisogna smanettare per centrare bene il corrispondente, capito? Oh raga, sto usando il DAC, com'è? Va bene. Ma è troppo basso di modulazione, mi sembra, non vedo l'ago muoversi. No, non è basso, perché è basso? È quasi 9,10, sì. No, come modulazione? Ah no, qua sei buono, è 5. Ma è più amplificato il Galaxy, no? È un attubaggio di maniche. Esitta, c'ho il Mickey Gin, grazie a zero Mickey Gin. Vediamo se lo vanno il Mickey Gin. Oh. Adesso scherreggia. Adesso va meglio, meno l'UBF. Di Russo, una bomboletta. Dico, non va bimbi, non va nulla, però ho messo un po' a scaldare perché appena acceso non dà molta potenza, adesso sta iniziando a dare 10, 12, 15 volt sta dando. Vado al QTH piccolino, un attimo. Ehi, va bene. E che microfono hai abbinato lì? Sempre lo stesso, è uguale, stesso attacco c'ha. Va bene. Però c'era il Mickey Gin basso, ho capito. Adesso l'ho sollevato. Ehi, ascolta, ma quel contatto l'ho girato, io l'avevi a Carlo. Oh, hai dimenticato, ma ne so. Sì, magari gli te lo si intende. Mi ha detto con calma, me lo giri. Carlo è una persona molto educata. Fosse stato un altro, ma avrebbe già telefonato. Adesso glielo giro dopo, quando chiudo con te. Tanto c'è roba al forno, fra un po' devo staccare per controllarti. capito. Va bene, quindi ci può usare anche questo, dai. Sì, io voglio, no, e anch'io, adesso ti ho dato per i passaggi. Aspetto che rientra un prefetto a salutarlo e poi mi sento in doccia. Dopo domani mangiare, a risini, un quarto gioco gli amari. A dove fa un agosto. Le patelle devi fare che è morto. No, ci dici. Non ci dice. L'unica volta ho mangiato le patelle me le date tu. Ma hai deciso, cazzo. No, ma che? Io se vado al ghero sì. Ma dove andiamo al mare noi non ce n'è patella. Se vado al ghero a Fertilia sì. Fino alle rocce. Ehi, ma dove vado io? È vicinissimo qua. E io finisco. Ehi, tu andrai lì a Cosio, come si chiama? La zona di... a Palmadova. Ma è una Palmadova? Ti sto dicendo che vado vicino. Ah, San Giovanni. Non te lo posso dire, che è là. Cazzo vero, già se ne mangiano tutte le battelle. No, si mangiano gli scogli, burro. Ma che? Ma che vento, bello. Ti mando un messaggio dopo dove vado. Da casa mia ci metto 10 minuti a arrivare. Ti aggiunto tutto. Ehi, allora più o meno già ho capito. Adesso giù, dai. Bravo. Ehi, andava bene. Sì, dicene un bel. E anche polpi ci sono. Ma io non ci entro in acqua, che è fredda ancora l'acqua. È fredda, sì. Questa macchina getta dalla prossima settimana. Abbassano la temperatura e mercoledì c'è pioggia. Sì, ma domani e dopodomani abbasso 35 gradi, però. Ehi, a che passendi? Sta passando, sta andando via questo ciclone africano. La gente da che entra. Ci sono già temperature a 26, 25, 24 e mercoledì pioggia. Temporali sparsi. Ma bisogna vedere, Cla. A quando a mercoledì bisogna vedere i venti, porta via tutto, bisogna vedere com'è la situazione. Oh, vuol dire questi temporali, estivi di maggio e giugno. Mamma mia, soprattutto quelli di giugno. Fanno un disastro allucinante. E io ho giù qualche cosa io. Ultimamente più cosa mi ha fatto a me. Ho bruciato i finali del lineare della radio, ultimamente più. Già c'era anche tu il giorno. Allora, ma restate, dammi i pantaloncini a petto nudo, non me ricordo. A me non ti ricordi cosa mi ha fatto. Ma era l'estate, non è colpato che le direttive avevano tirato il fulmine. Ha fatto 2700 euro di danno. Tradizione, già. E meno male è tutto spento. Io non c'avevo tutto spento. E farà doppio la cabina elettrica a 20 metri da casa, ha crepato tutto quanto c'è. Scalda bagno, lavatrice, televisione, due radio, alimentatori, computer. Cazzo, mi ha fatto un danno allucinante. A me mi aveva bruciato il finale dell'S9 e il finale lineare. E di altre radio invece niente. E la lavatrice mi ha bruciato. A me due radio. Il Milano ha l'effetto 1000D, che sono bocce varia più grande del 920, un barragio, 200 watt di potenza c'era quella radio, un modello da 200 watt, una cannonata, avevo mandato al centro assistenza, alla IAESU, mi avevano detto che non si poteva aggiustare, che lo tenevano a questi ricambi, mi avevano valutato 500 euro, avevo aggiunto altre, non mi ricordo quanto, se era 600 o 700 euro, avevo comprato la radio nuova, l'effetti 1200. Sì, già mi ricordo. Di questa cosa qua. Avanti, Rubrefe, non la mara, tanto QTH piccolo, poi niente. Assumiamo la motopompa, e beh. Stavo guardando i contatti del coso, di quel microfono nero, ma è un casino. Io ho messo le batterie da moto, due batterie da 1,5 non capito poi cosa ci fanno. Come si chiama? Di quel microfono a tavolo, quello nero, da Domis. Per me sì, al limite dell'innesco. Vento la maletta. Antonio, abbassala appena il microfono. Se ce l'hai a 4, mettilo a 3. È come avvicinare la mano al coso, al microfono. Adesso non lo fa più, fa tanto. A parte, vabbè, la vento si sente perché è dall'altra parte. Se lo metto il microfono normale, già via a Napoli, aspetta. basta. No, aspetta, Antone, non lo mettere, aspetta. Fammi capire a quanto ce l'hai quel microfono. E i toni anche. No, i toni non deve toccare, se non fischia. No, il tono è a zero. Guarda, non devo avvicinare il dito nel volume, fischia. Bene, adesso c'è la manetta, è a 10 l'amplificazione. La mano è distante, se io avvicino la mano alla... adesso non fa per niente. Il potenziometro però che la fa le balle. Vedi, ci mette tutto sopra, adesso il potenziometro lo giro, vedi? Tende a fischiare. Se metto a 10 non fischia più. Voi scusate, ma parla di cosa? Di domani parlo me lo compro. Mi coincide il cibo latte. Per me è troppo alta la radio così, per me, Oh ragazzi, scusate, c'è lavoro. Ciao ragazzi, io scappo, dai. Grazie alla chiacchierata delle due risate, sia a Claudio che a Massimiliano. Ciao Antonello, dai. Buona continuazione, ci sentiamo alle prossime, ok? Grazie mille, buona serata, ciao ciao. Ciao Gianni, ci sentiamo. A dopo. No, se lo metto a 10 ci posso mettere il dito sopra nel volume, vedi, non succede nulla. Adesso io giro piano piano, vedi, sono a 7 e fischia. Scendo a 4 e non fischia più, quindi in pratica 4 e 10 non fischia per niente, metto a 7 e fischia, quindi il potenziometro leggermente sforzo, ma già lo pulisco qualcosa. Ecco cos'era il fischio. Adesso l'ho messo a 4. Lascio a 4, aspetta, ma se mi devo girare a campo. Eia. Ciao Lubrefe, buona passeggiata, buon tutto. Ascolta Antonelli, mettilo a 3 invece. Ecco qua, così a 3. No, aumentalo tra il 3 e il 4. Così? Va bene, sarà un po'. Così va bene. Per me la potresti lasciare anche così. Guarda, lo devi diminuire proprio di un pelo. Sì, vabbè, lo lascio così, a seconda di come metto distante, vicino, capito? C'è una cosa strana, Claudio, non so se a te ti è mai capitato. Mi è capitato a quel tribù che io stavo comprando fuori, da Venezia. In pratica questo qui quando mi ha fatto vedere l'apparecchio, ci ha messo il telefonino di fronte, doveva descrivere come camminava, descrivere del frequenzimetro, e me lo fa solo, a me lo fa solo con l'altra, con l'altro no. Quando mi ha detto quello dice guardate il telefono, e io gli ho detto ma mi sembra possibile a me che un telefono faccia una cosa del genere, invece è vero, se lo fa solo l'altra, invece l'LG, se tu sei di fronte a una cosa del genere non te la fa per niente, l'altra è una cosa micidiale, anche se devo per forza metterlo distante, se no crea problemi alla pariccia. Addirittura quando mi stavo chiamando si dice tutto. Allora sì, perché Antonio fa tipo un effetto eco, fa il microfono vicino alla radio, è vero, già così. Ho sentito una lua, avanti da Bari, K Bari, buonasera, bulldozer Massimiliano qua, coordinate di Sassari, in compagnia qua di Antonello, Alessio, sempre in coordinate di Sassari, Sardegna. Ok, Massimiliano bulldozer in Sassari, sono di passaggio qui, ho fatto una carellata, io ho sentito voi. Ok, qui Riccardo dal Paunio, Polignano a Mare, Bari, K. Riccardo, ciao, sono Claudio Sparviero, ci siamo già sentiti, ciao. Sparviero, ormai. Ok, questa è propagazione giornaliera con la Sardegna. Bene, ho sentito anche il dozer, ma siete vicini lì o lontani? Perché comunque io ascolto tutti più o meno. Ok, abbasso a te bulldozer Massimiliano K. Ok Riccardo, dai, ti rilancio Antonello così vediamo un po' se ascolti anche a lui. Claro, io mi passo due passaggini da 45 e poi vado un attimino a farmi una docetta al volo, ok? Riprendete voi Antonello con Riccardo, vai. Ehi, ciao, ma se vediamo ci sentiamo dopo, oppure domani. Ciao Riccardo, ben sentito, ciao, sei Antonio D'Alessio, buonasera, ben ascoltato. Sempre quello che dici qua, Radio 5, Carbonazzi Alto. Sì, ok, ma io vi voglio lasciare al vostro QSO perché stavate discutendo di cose varie, avremo occasione, penso, di riascoltarci ancora, ok? Grazie per avermi detto qualche chiacchiera, sì, appena, e buoni QSO, ci aggiorniamo in un altro momento perché proprio di passaggio qui. Bene, girando velocemente i canali ho sentito voi, Spalviero Claudio a te l'antenna qui da Riccardo Polignano Bari. Sì Riccardo, molto bene, sempre fortissimo, anche ieri arrivavi molto molto bene, con Lignano Mare, il paese di Domenico Modugno, molto bene. Sì Antonio, lascialo stare così il microfono, non lo toccare perché va più che bene a 4, eh. Ottima modulazione, si sente meno la ventola e lavora meglio, lavora molto molto bene. Avanti Antonio. È così infatti, ho lasciato così. Ciao Riccardo, Santonia, che te siete andando via, alle prossime. Il sole sta andando bene a quanto sembra, questa propagazione estiva mi sembra di essere tornato anni indietro, che viene estate, propagazione tutti i giorni, e invece c'erano degli anni, se ne scendeva l'aria, fulmini, tuoni, c'era la propagazione, se no si attaccava al drago, invece adesso sto facendo il contrario, meglio così. Vuol dire che le macchie solari stanno andando bene. No, va bene, la propagazione è buona. Però vi devo allontanare, io mi devo allontanare dalla radio perché ho roba al forno e devo seguire, se no stanotte non si mangia. Riccardo, un abbraccio grande, quando vuoi siamo qua, passa pure a salutarci, il nostro canale è il canale 10, quindi quando c'è propagazione passa qua, che trovi sempre a me e qualche altro, ok? Un abbraccio Riccardo, ci sentiamo alle prossime, a te il cambio, ciao Antonello, ci sentiamo più tardi. Sì, questi sono gli amici, sì, anch'io mi devo allontanare, sto finendo una cosa al computer qui, ok, 100%, canale 10 rigorosamente AM, che qui sta un sacco di gente che va in FM, crea dei casini a volte in frequenza, rumoracce e cose varie, invece la buona cara AM è sempre abbastanza penetrante quando ci sono disturbi a QRM. Buona serata a tutti quanti, a presto dalla Sardegna, qui Polignano chiude, K. Ciao Riccardo, mi hai fatto 9+20 e sembri a livello locale, ciao, un abbraccio, a presto, Antonio, ci sentiamo dopo, ok? E io, d'accordo, a dopo, ciao Riccardo, ci sentiamo alla prossima volta, non c'è problema, ok, ciao, buona cosa, buona cucinata, anche tu sei mangiando il bollo. Io ho già cucinato stamattina alle 7:30, sono in piedi, ho fatto il pollo, ho fatto il sugo e poi, vabbè, siamo una uscita, io invece sono andato a casa, dopodiché ho provato il cane, eccetera, eccetera. Ok, ciao, buon tutto. Sì, Antonio, già c'è la radio accesa, lì mi tento dopo, che devo girare, che c'è roba rossa, se no mi si brucia tutto. Ciao, allora, lascialo stare così a 4 che va benissimo il microfono. Ciao Claudio. Ciao Franco. Ehi, dai un abbraccio, visto che stai scappando, buona cena, buon tutto, saluta a tutti. Ciao Alessio. No, Franco, lì sto andando a girare che c'ho roba rossa al forno, se no mi si brucia, te lascio con Antonello, già detto dopo. Ehi, gira. Fallo girare, come si dice. Complimenti Alessio, ti ascolto veramente bene, era ora. Già c'è gli apparecchi adatti adesso. Con le 4000 funziona benissimo, esce bene pure questo. L'unica cosa adesso volevo sistemare le cose, no? Mi sta cominciando a dare già i numeri un pochettino. Mi compro tutti i componenti nuovi, i trimmer, li ricambio tutti. Poi controllo se c'è qualche condensatore da cambiare, glielo cambio e me lo torno come si deve. Perché mi stavano dando dei problemi in FM. Adesso con questo apparecchio qui riesco almeno a fargli la tarantura come si deve, se no uscivo in testa, anche perché gli altri apparecchi sono tutti a banda larga, quindi la centratura non lo puoi fare giusta. Avanti, Fra. Sì, sì. No, ma ultimamente ti stavo ascoltando bassissimo, un segnale mai visto. Cioè, tipo 3-5. Adesso invece sei ritornato 9-20, mi sembra. Io come ti arrivo lì a quello Smith? Vedi un po'? 1, 2, 3, prova. 9-10. Ma tu sei anche più forte, tu sei oltre 9-10. Tu sei 9-10, torno pronto qua. Io sono con... Guarda quanto scendi adesso, così sono 4 watt. Segnale 9, quasi 8 e mezzo 9. 30, tutti bene lo stesso, della radio sempre buona. Sì, la radio è buona. Ciao Carlo, ben entrato, sono tutti lì, sentito. Avanti Carlo. Sono ai fornelli, spaghetti con vongole. Ciao Carlo, tutti ai fornelli siete? Perché prima stavo a fare un po' di spesa, quindi dalla spesa ai fornelli ci vuole poco. Il passo è breve. Allora, poi alla banca e si mangia. Cosa state combinando? Sì, oggi ci ho messo di propagazione, mi ha fatto qualche DX e poi ho sentito degli amici qua e sono entrato pochi secondi fa. Avanti Reggio, avanti per Città di Sassari. Come sento segnare qua in diretta per Reggio Calabria, se mi puoi dare un rapporto, buonasera. Buonasera, qui è l'operatore Carlo e il rapporto è Santiago 7 Radio 4 qua a Sassari. Sono in compagnia di Antonello e Franco. Vai Antonello se senti l'amico da Reggio Calabria. Sì, ascolto. Segnale 9 qua, Radio 5. Non so come mi ascolti tu a me, avanti, dopodiché te le passa prende Franco. Ecco, anch'io lo ascolto un po' bassino, Franco da parte mia, perché ho un'antenna sulla finestra, capito? Non è sul tetto, quindi comunque ti ho ascoltato ugualmente, avanti. È scesa la propagazione, mi sa. La zona è Sassari, nord e Sardegna. Io non lo sento più, eh. Sai quando l'ho capito in 23 mi sembra aver capito. Lo sento basso anch'io adesso, sei sceso a 5, 4. Stavo usando l'HB 23 con un'antenna mobile, buonasera a tutti. Avvisami prima di parlare. Antenna vertica, però un po' bassino adesso, prova a fare un passaggio più lungo. Qua è la città di Sassari, nord Sardegna. Dai ragazzi, sono entrato così per salutarvi di sfuggita, dai, me ne vado da un'altra parte. Signor Radio, mi sai, mi sa che quello di Reggio Calabria pensa che sia vicino a casa sua, vedrai, e questo Massimiliano. Oh, non lo so se mi ascolta l'amico di Reggio Calabria, mi ascolti? Ah, ok, dai, sì, mi ascolta, lì, mi ascolta. Lui arriva a Santiago 6-7, Radio 5. Tu sei il più forte in pratica di là, a me lo mette le bandute, mi sembra. Reggio Calabria, mi ascolti a me? Nulla, non venire di qua, non mi sente, sente a te. È la zona. Mica ti ha risposto me? Non sento più io. Tu sei parato? No, ti ha risposto, lui ti sente. Ciao Franco, ciao Carlo, dai che vado a fare quel segreto da un'altra parte. A fare a Buruto stai andando? Beh, non si sente che qui c'è la battaglia. La combattimento, dai, divertiti, ciao. Ciao. Oh Carlo, fatti dare il mio numero da qualcuno. Bene Massimiliano, me lo faccio passare da Claudio al limite. Andà bene vera, ci sentiamo, ciao alle prossimine, ciao. Ciao, oh, grazie, alle prossime. Ciao Massimiliano, ci sentiamo, alle prossime. Avanti Fra. Abbiamo parlato assieme, io ho rilanciato a te e tu hai rilanciato a me, dottore. Andiamo e andiamo. Poi c'è un mese di propaganda. È tutto il giorno così, anzi tutto il giorno, da un'ora e mezza a questa parte che ogni tanto entra uno, fa break e si sentono tutti bene. C'abbiamo una bella preparazione quest'anno, di solito ne dovevo accendere l'aria prima, capito? C'era un periodo che doveva piovere, fulmini e ti mettevi per fare di essere, ti mettevi a pompare con le liare a rischio che pigliavi. Figurati con 600 watt via di zetto io e il temporale stavo avvicinando la patria, come sentivo che era già vicino a Ossi, quindi avevamo tutto gli pigliati nel culo. Altri tempi, la posizione era migliore di quella che c'hai adesso? Molto meglio. Io da lì parlavo tranquillamente con tutta la zona di numero, e addirittura arrivavo a Villacidio, provincia di Cagliari, segnale di 5, però ci arrivava radio 5 perfetta, con questo apparecchio qua, c'è cioè, quasi 20, con il corso 80, l'avevo montato in garage con 30 metri di cavo e era un peso perfetto, c'è. E... QRM0, in quella zona QRM0, proprio dire, sentivo anche le mosche, se non... Ma senza propagazione locale, ci arrivavi proprio diretto? Diretto, diretto, senza propagazione, niente. Parlavo con Forza Maggiore, poi Bosa Marina, addirittura tutti i giorni parlavo con la Spagna. Tutti i giorni, mattina e sera, anche la notte, non sono andato. L'unica cosa che non sono mai riuscito a parlare è il brasileiro, non c'è avverso, niente, tantomeno qua. Invece qui, vedi, con la Russia parlavo, e ci parlo tuttora. Arriva bene qua la zona del Russo, Ucraina, eccetera, eccetera. Là però è più bello, perché è una posizione allucinante, tutto aperto, cioè proprio per la Centro Sardegna. Figurati al passo di Codebui arrivavo 9.25. Bravo. Io l'altro giorno ho parlato con, vicino a Venezuela, con la Guyana francese, che non è molto lontano dal Brasile. Invece la Costa Rica l'ho chiamata, non mi ha risposto, quindi non so, magari c'era altra gente poi in mezzo che chiamava. Bene, dai, avanti Carlo, tu hai fatto qualche collegamento in particolare? In questi giorni c'era un po' di propagazione, anche io ho parlato col Sud America, col Brasile, capito, con segnali anche forti, arrivavano qua a Santiago 8, Radio 5, a volte anche Santiago 9, propagazione ottima, ho visto che anche ieri sera c'era tutto il Sud Italia, anche stasera prima abbiamo sentito Reggio Calabria, Polignano a Mare, il paese di Domenico Modugno che è entrato anche stasera, insomma, bene mera, vai Antonè. Buonasera dalla Sud Italia, provincia di Lecce. Buonasera, provincia di Lecce, ben ascoltato anche a te, Alice da questa parte, Carlo e Franco, avanti a te. Buonasera quindi Carlo e Franco, quanto pare che sto riuscendo più o meno forse a sentire, a te ti ascolto molto bene, ti ascolto con un segnale di 7 e una radio di 5, ovviamente su e giù in base alla propagazione. Dunque, ripeto, una buona sera a tutti voi in ruota da parte mia, Antonio, mio nome è, trasmetto da Nardò, provincia di Lecce, a te che mi hai fatto entrare. Sera Antonio da Nardò, provincia di Lecce, questa è la città di Sassari, anche tu qua arrivi Santiago 7, 8, radio 5, un po' va e viene la propagazione, però ti sentiamo bene qua a Sassari, ti rilancio Franco. Sì Antonio da Nardò, mi senti? Perfettamente Franco. Sei capo, io sono un po' diciamo handicappato, la mia antenna non è sul tetto, però ti ascolto bene ugualmente. Benissimo, sì, io ti ascolto bene, sempre 7.5, 7.4, ma quello è il segnale. Perfetto, dai Antonio, da Nardò. Avanti Antonello, Alessio. E io poi c'è proprio la pagazione al nastro, intanto veramente a uno. Tutto il servizio che c'è stasera a casa. È bel tempo qui, l'alta pressione favorisce la propagazione, così è Carlo. Esatto, infatti come dicevo prima, ottimi giorni questi per fare VX e via via. Vai pure Antonio, fai un altro passaggio così ti sentiamo per i saluti. Perfetto, senz'altro. Ci sono alcune volte che mi fate punte di 9, 8, 9, poi scendono giù, ma generalmente lo standard è di 7. Evidentemente sì, la propagazione è molto favorita. E con pochi watt, oddio, io sto andando con l'apparato, i watt dell'apparato sono 100 watt, con un Kenwood, un HF, niente di più, non ho voluto montare niente di niente, prima vi ho sintonizzati e centrati con la Delta Loop Detiva, ma vi sento molto, molto meglio con la verticale. Bene, è così, vai a te Franco. Mi hai fatto punti da 9.20, adesso sei sceso un po', non so se mi stai ascoltando. No, io sto usando un'antenna autocostruita, una tipo canale a pesca, vedi un po' se mi stai ascoltando ancora Antonio. Perfettamente, 9.5. Ok, Caspita, complimenti, una buona propagazione. Come mai con la direttiva non... forse perché noi siamo polarizzati in verticale? Beh sì, sicuramente, infatti voi siete con la verticale, quindi io puntando di voi con la direttiva non vi sento bene, però il segnale massimo ce l'ho verticale con verticale, questo sicuro. Puoi fare la prova, diciamo, c'hai un commutatore, ti viene male, per curiosità più che altro. Sì sì, come no, certo, guarda, adesso sono con la verticale, sgancio un secondo, ecco, con la direttiva, questa è la direttiva, ritorno con la verticale. Nuovamente con la verticale. Sì, qua sei sceso di segnale, sei sceso 1-2 di segnale, da 7-8 kg. Sì, in effetti, mi sono reso conto anche perché vi ascolto più bassi anche a voi, anche se ho cercato di centrarvi il più possibile. Però nessun problema anche con la orizzontale. Avanti, Alessio. Sono abbissato il gigante, cioè, la 9 più 15 è sceso, segnale 7 con l'orizzontale. Adesso è di nuovo passato 9-15 l'oscillazione, anche io sto usando un K, sto usando 140, quindi... Comunque arrivi benissimo, mi fai punte di 9 con radio 5. Già va bene, meglio così, sono contento, almeno una bella preparazione ce l'abbiamo. Se continua così stanotte parliamo con l'Africa. Sì, sì, spero che magari continui ancora un po', così almeno possiamo sentirci un po' più. Mi sa che Antonio io ti sto perdendo, io ti saluto per sicurezza, diciamo, dai, un abbraccio da parte nostra qui da Sassari. Avanti Carlo. Ah, buonasera Antonio, perché mi sa che sta accendendo un po' la propagazione, ce la risentiamo, noi siamo sempre sul 10 qua, città di Sassari, sempre in AM, sempre in AM, vai Antonello. Vivi bene? Eia, Kappa, salutoni amico, sei calato adesso il segnale, 5-6, non di più, questa parola è a tratti, cambia, da una città all'altra. Adesso fra poco verrai, arriverà a Roma, se scopriamo Roma. Sono bene, non lo sento, la verità, Carlo. Una volta ci ho parlato con proprio Roma città, tanti anni fa però, Guarda, dipende tutto dalla propagazione, certe volte verso il nord io ho parlato con Torino, Novara, tutta quella zona là, anche più su, anche fuori dall'Italia, ho fatto Germania, Austria, sempre con 10 watt in AM senza andare in banda laterale, dipende sempre dalla propagazione, a volte arriva forte, a volte cala. Vediamo se sentiamo ancora Antonio da Nardò, vicino Lecce. Caggiù è la propagazione. Se gira la direttiva fra quella in la grande regione, la giro verso Roghero, come l'anno scorso sento i portati dei traghetti che ci sono di lì. Roghero. Che direttiva è? Quella per il PMR. L'hai costruita tu? No, me l'avevo regalata, Se la giro al vero ti sento tranquillamente in chiaro, mi proprio chiaro, tutti i traghetti. Sì, calma, no, devo dire, ma ce l'hai motorizzata? Come si chiama? Il rotore? No, è fissa. Capito che abbia poco questa antenna. E qui c'era il palo adesso, c'era il motore prima, avevo un motore di una parabola, della del system, dopodiché, siccome pesa un bel quell'antenna, è arrivato un colpo di vento forte, e mi aveva trappato, come si chiama, ha spaccato lì quello che c'è all'interno, capito? E quindi non girava più, girava a vuoto. Chiamava qualcuno di quei motori che ci sono per andare nella televisione, piatto uno di quelli ed era come mi ripeto. Ti ha dato l'ingranaggio, la coppia conica, dai. Io l'avevo comprato tanti anni fa, un rotore in scatola conservato a casa della mia 25 di allora, non l'ho più trovato, chissà che fine ha fatto, non l'ho più trovato, nuovo, mai usato. Avanti Carlo. Scusa, ma però ho i fornelli. Mi sa che faccio così, appena adesso incasso un po' di soldi, vado da mi ordino il dottore, quello per la TV, con contro box e me lo piazzo, intanto con la penna che ce l'ho, dove c'è l'antenna della TV, quella da piazzata, c'è un altro centavo, gli dico con quello, gli metto un altro più grosso e sopra ci metto quella di TV e ci piazzo, così la faccio girare un pochettino. Bene, bene, dai. Ma stai cucinando di buono, Carlo? Spaghetti vongole. Ah, mi ha detto che è di pasta. Io invece la pasta la sto evitando la sera per buttare giù un po' di pancia. Quello c'è la bicicletta, Ma magari, poca voglia di pedalare, dai. Sto facendo poi un sacco di ore adesso, dalla mattina, rientro verso le 5, le 6. Io quando posso me ne esco, me ne avevo preso una di quelle con la pedalata assistita e arrivo sino a Nulvi, Osilo, ovviamente poi quando posso pedalo normalmente, capito, anche se è un po' pesantina, però riesco a fare anche 100 km con quella. Buono, buono, io ho mio cognato che è appassionato, si ha la bici da corsa, dai. Ma si fa un sacco di chilometri, cioè a volte da dove abita lui, abita vicino a Florina, arriva anche a Sentina e poi torna indietro, no? Penso che siano parecchi chilometri da lì. Parecchi, però quelle sono biciclette ultra leggere, loro ovviamente se sono semiprofessionisti o professionisti hanno anche la muscolatura e quindi sanno anche come dosare le forze, hanno i rapporti molto, molto alti e insomma sono ottime biciclette quelle. Io ero un po' arrugginito, allora avevo optato per quella con la pedalata assistita, che la uso anche e soprattutto in città per fare commissioni, andare a pagare l'assicurazione, così evito di prendere la macchina e trovo parcheggio facilmente. Sì, no, è comodo, è comodo. È polivalente la tua, dai, la utilizzi sia da una parte che dall'altra. No, lui esce con un gruppo. Mi sa che c'è anche con quel ragazzo che trasmette da Muros, come si chiama? Con Claudio. Infatti Claudio netto lo conosce, mio cognato, dai. Bene, avanti Alessio, tu esci in bicicletta? Se esco in bicicletta invece non mi fa, vabbè. E a basta che faccio via Carlo Felice, dai, non si finirà qui con le buste. Già viene poco male già a salire. Con fiatone salite. Specialmente con questo caldo mi ha messo questi giorni, per la carità. Ui, se andiamo a salire adesso mi ha delle... C'è una bicicletta in garage che sta salendo della Mondial Cars, figura. Poi c'è, dovrebbe essere un tappeto là, che c'è mia sorella, ma non va a giocare di portarmi la sicurezza qui a casa per lavare, mamma mia. Già mi ricordo quando sono andato in ospedale per fare la prova per il cuore, no? Dice pedali, mi sono messo a pedalare. E mi fa, come si sente? E poi mi fanno male solo le gambe, che ho detto, dietro il collo, dietro, non mi fa mai per niente, detto, abbiamo finito? Sì, mi metto, allora lei è a posto, ma adesso. Allora, visto che adesso te la stai facendo a piedi, più che una bici ti conviene una carriola, poi ci metti la spesa dentro. No, guarda, se mi dovessero chiamare a lavorare, mi piglio subito con la macchinetta 50, se poi voglio 50, la puoi usare tranquillamente senza casco, senza nulla, e la uso solo per fare la spesa, quella che ci sono su internet. Guarda che c'è la nuova, la Citroen, ha fatto sembra una macchina, ma è un motociclo praticamente, ci vorrà la A credo per guidarla, tu ce l'hai la pallamoto? No, non c'ho niente io, non c'ho né patente A, né B, né quell'altra. Ci sono quelle macchinette che non c'è bisogno né di patente né di nulla, no? Proprio manco assicurazione. Non mi ricordo quanto viene, prendo mi prendo una di quelle, tipo UFO e combite, là, ti hai capito? Prendo una di quella e vado a fare la spesa con quella. Sì, sì, c'era un mio amico lì a Olmedo, la usa, un meccanico di Olmedo. C'è anche il portabagagli dietro, un piccolo portoggetti grande, dai, dove c'è anche la spesa. E c'ha, penso che abbia quattro ruote, o tre o quattro ruote, adesso non ricordo. Caro, tu la conosci quella della Citroen, quella macchinetta che ha fatto la Citroen? Negativo, non ne ho neanche la più pallida idea, ma stanno sempre a inventare, molto probabilmente sì, come dici tu, ci vorrà la patente A per guidare quella, perché sono poche quelle con guida assenza. Va bene, io vi devo lasciare perché subito pronto, nel caso ce la sentiamo più tardi se ci siete ancora. Ciao Antonello, ciao Franco, alle prossime, grazie per il collegamento. Scappa, sì, anch'io qui, vedo che sono le 8:30, anch'io mangio qualcosa, dai. Ti saluto anche a te Carlo, buona carica, buon tutto, saluto anche Antonello, se rientra Claudio salutatemi anche Claudio. Avanti Antonello. Ehi, ciao Carlo, buona cena, ci sentiamo al limite dopo, ciao anche a Franco, là. Sì, c'era anch'io, se no mi riempio solo di acqua stasera. Sono già stato bevendo acqua, c'è lo stomaco pieno di grosso. Ok, dopo, al limite, ciao. Ciao, ciao. Buonasera a tutti. Ehi, aspettiamo, ciao. Hola, c'è qualcuno qua? Hola, attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. C'è Q10, c'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno qua? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Hola. Hola. Satelli, la qualità vince la sfida. Da volte, dalla freschezza alle tue marche preferite. Visto? Sono qui. Sono meritato io. Hola. Hola. Avanti, chi è? Ciao Natali, ho fatto quella connessione, mi ascolti? Di lusso, io come sto uscendo, amplifica. Una bomba, sì. Bene, mi ascolti, sì. Di lusso. Guarda, di positivo. Adesso quanto andava questo filo? Micidiale questo filo, va benissimo. E infatti chi ha ricciuato è un macello. Comunque già sta amplificando bene questo. Ma per positivo. E questa la radio, bella è. Di lusso. Ma per positivo, va bene, dai. Lo chiudo, dai. Ci sentiamo più tardi, Natali. Ehi, già sono qui. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Chi è avanti? Io. Antone, amplificando sta il microfono. Sì che sta amplificando. Ciu. CQ10. Sì, sono qua, c'è un po' di propagazione nei canali normali. lo so. C'è un po' di propagazione. Comunque adesso il volume come quello di Claudio c'ha. Eia, un quale legno? Beh, l'ho dovuto aprire. Ma è bene, però te che stai dicendo bene pure del resto. Già va bene. Beh, combattenti. Mi stavo preparando tutta la roba per domani mattina. Come mi ascolti di radio? Che sto uscendo col microfono suo. Per me, Nathalie, la tua voce questa sera è uno spettacolo. Bellissima, chiara, forte, fondo scala, ma la radio ha migliorato. L'MC60 questo, ha una benemera, quello è quel microfono. È il microfono suo, capito? Volevo sapere solo se stava amplificando, capito? Sì, sta amplificando, sento sotto tutti i rumori, la TV accesa che hai, però la radio è bella. È come quella di Claudio, è così? E diciamo di sì, bella, bella tosta. E sono basso quindi, ma chi? Perché a fare troppo casotto non mi piace. Capito? Va andare, sono contento, là. L'ho messo a posto. Lascialo così che va bene, Natalia. Ah, io non tocco mai nulla, no. L'ho toccato solo stasera perché non funzionava una questione qua, gli ho dato la medicina dell'occhio e sta andando bene adesso. L'ho chiuso poco fa perché non c'ero stasera che ero fuori. Ho capito, vabbè, importante se è riuscito a metterlo a posto. E negli anni che furono ce l'ho avuto e quindi lo so come. Quindi già l'avevi già usato. Sì, sì, stasera vi ho sentito parlare di propagazione, sì, ma anche ieri sera, quasi tutte le sere, a tratti c'è anche forte da sud Italia, anche stasera abbiamo parlato con Lecce, Bari, insomma, ogni sera c'è questa robina interessante, importante che ci sentano bene. E infatti io adesso volevo vedere se entra qualcuno di propagazione come arrivavo, capito? Sicuramente è meglio di prima. Poi il giorno che ti sistemi l'antenna tu vedrai come esci, perché la tua l'ho vista da lontano e diciamo che già se la metti nella stessa posizione già è anche in alto e quindi da lì è anche se vogliamo un'ottima zona. Alla base dell'antenna sbuca fuori solo di 1 metro, adesso quando mi piazzo l'antenna sbucherà fuori di 3 metri, capito? E allora diciamo, quindi avrai diciamo ottimi risultati, dai, perché la Game Master diciamo è già buona come antenna, poi senza radiale è facile da mettere, non necessita di nessuna taratura, dovresti avere pochi problemi e dovrei avere più ricezione, diciamo così, dai. Perché a sentirmi già mi sentono da quelle parti. La Game Master che hai preso tu è quella 5 ottavi, vero Natalia? Sì, quella 5 ottavi. Abbiamo visto tutto. In realtà più di 7 metri. Già va bene quella, voglia. È buona quell'antenna. Sirio l'ha azzeccata con quell'antenna lì, infatti ne vende a fasce di quelle. E costano anche un pacco di soldi. Tempo fa lo guardate, era intorno ai 156 e qualcosa. E così costano. Sono di più pure, adesso non lo so. Io l'ho pagata una cosa del genere, ma bisogna vedere se aumentano, se non aumenta. Magari vai adesso e costa di più. Parecchio che non la vedo, ma ogni tanto già ci entra a curiosare in quei siti lì. Ma quella la vendevano anche su eBay, su Amazon. insomma, diciamo perché è un'antenna abbastanza diffusa e ha una bella vendita, quindi la trovi, a volte anche qualche offerta si può trovare, capito? Ma in offerta non penso. Poi l'assidio già vende un becco. E beh, Antonè, cosa mi racconti anche tu con la nuova radio a pompa? C'è a pompa già, c'è la popolazione poco fa, il 27-165, c'era anche, vabbè, Cagliari non lo sentivo, c'era questi qui che stavano parlando con la Sardegna, e dopo mi sono fatto un giretto a vedere cosa c'era di bello. E anche preparazione, meno male, sentiamo un po' di freschezza adesso. Altra cosa bella, da quando ci sono più quei fili, cazzo, rinati insomma. Prima se faceva vento arrivava l'aria fresca, se non faceva vento, c'era quella specie di carrozzone che è fatto di là, adesso quei fili non ci sono più, l'aria entra adesso. Io lo stesso, dietro casa mia prima c'era una fila di pini, ma avranno avuto più di 100 anni, poi uno era caduto e aveva danneggiato una macchina, buttato giù un muro di contenimento che c'è, e io sono confinante con quel parco delle suore, no? E allora le suore, per questione di sicurezza, li avevano fatti tagliare, per cui adesso c'ho tutto aperto verso quella zona, infatti prima non vedevo tutta la zona di Monte Bianchino eccetera, adesso da quando avevano tagliato quegli alberi è tutto aperto invece. Io da qua vedo tutto via Fodalito, vedo dove c'è la farmacia, tutto, dove c'è il bar, ci manca solo che guardi le camere da letto, i bagni. Camere da letto magari è più interessante dei bagni. Sì, vabbè, la camera da letto già la sento qua. E quando vado su 27, no, 29, 675, ci sono quelle radioline, quei baby, come si chiama? Quelle radio che piazzano vicino alla culla, che mettono la camera da letto, quando piace il bambino, tutto sento, arrivano 20 qua, deve essere in questa zona. Aspettina, quelli solo che trasmettono solo, se no gli avrei fatto prendere uno spavento. Sì, 29, 675 la frequenza dove sono quei cosi. Avanti, Natali. Questa legge è un piattone. Sicuramente. Un piattone. Vabbè, piattone no, quello lo facevo prima. Ma c'è una serata che il via Rizzetto massacravo quei telefoni cordless che usavano in casa un periodo. Quando parlavano, prendevo e ci parlavo sopra io. E vedete gente sparire dalla. Prendevano più telefono. Quanta megahertz? 49 e anche 30 e qualche cosa. Comunque intorno ai 49. È a pieno. Dai 47, no, dai 45 e 49. Eh sì, perché anch'io me lo ricordo, più di una volta li sentivo, un periodo avevano uno scanner di quelli portatili e ne beccavo un sacco su quelle frequenze. Allora si sapeva anche il Gordatex, se te lo ricordi, quei telefoni grandi, con l'antenna, si poteva anche per installare in macchina a casa, quelli erano micidiali, 15 watt d'uscita. Sicuramente se telefonavi per dire se la base la lasciavi a Sassari e tu eri a Trentino arrivavi meno tranquillo. Altri tempi, ormai tutto cellulare, la radio diciamo è per pochi, dai, per chi ha la passione ancora, per chi l'ha avuta da prima, come me, poi l'ha ripresa, prima abbandonata, poi ripresa, adesso piano piano, dai, già, anche io mi farò una stazione con qualche apparecchio radio in più, dai. Prendi uno che faccia tutto, capito? Il caffè, la mazza caffè, eccetera, eccetera. E K, lo sa qua si sente del lock. Eia, siete Grazie. Io non lo sento qua, mi ha aggiustato le cuffie, mi hanno regalato lo spinotto e sono una bomba adesso. Quindi sei in cuffia adesso? No, negativo, ma gira gira me la metto, così non sento la televisione. La guerra è iniziata qui. Basta mie, che se la sta ascoltando mia moglie, ma io non ne sto guardando, no? Sono davanti al computer qua parlando con voi, adesso me le metto. Pone delle cuffie, no, io diciamo cuffie per sentire musica, già le uso, quelle senza filo, però non ne ho più di quelle a spinotto, perché